Questo è lo zoo, lo zoo, lo zoo di 105. Lo zoo non ha un programma adatto a chi si offende. Wendell non ha più denti perché li vende a chi perde quelli veri, perché pippa come palmiere in giba e nemmeno si riprende. Paolo Noyes di super minchia ha solo la voce, con le donne soffre di eiaculazione precoce. Alizei si ammazza di spini e quando è fame chimica si mangia i bambini. Mazzoli non è frocio come dicono in giro, l'ho visto andare a prendere la sua tipa all'asilo. È leone all'alito che mette al muro, al posto della bocca un buco di culo. Ma leone ha una chance, e se la gioca coi trans, leone ha solo una chance.